chi è l'uomo iniquo? Non certamente io, neppure tu, è sempre l'altro. Secondo il dizionario, iniquo è colui che non è equo, colui che non è giusto. Con questa definizione, tutti gli uomini, io e tu, compreso, a volte ci comportiamo da iniqui, perché chi può dire di essere sempre equo o giusto? È vero che ci sono solo poche persone la cui scorrettezza e ingiustizia è all'ordine del giorno, ma è anche vero che avere un comportamento imparziale è un obiettivo molto difficile da raggiungere. Perciò l'argomento è indirizzato a tutti, tu ed io compresi, poiché ognuno di noi ha le sue opinioni in merito a chi è un uomo iniquo, è saggio investigare il parere della Scrittura. Così si esprime in merito la parola di Dio. PR 6:12. L'uomo da nulla, l'uomo iniquo, cammina con la falsità sulle labbra. L'uomo iniquo viene mostrato soprattutto come colui che mente. La Scrittura poteva prendere in esame tanti altri peccati per definire l'uomo iniquo, ma molto probabilmente i peccati della lingua sono i più comuni e deleteri. In effetti, i mali della società provengono principalmente dal nostro modo di parlare, come la menzogna, le parole prodotte dall'ira, la calunnia, le divisioni, le liti tra coniugi che producono i divorzi, le liti tra fratelli che producono irreparabili ferite. Se poi consideriamo ciò che scrive Giacomo, il fratellastro di Gesù, comprendiamo perché la Scrittura dia tanto spazio ai peccati della lingua. GC 1:26. Se uno pensa di essere religioso, ma poi non tiene a freno la sua lingua, certamente egli inganna se stesso, la sua religione è vana. La lingua determina la validità della fede professata. Se si applica questo principio alla società di oggi, dove milioni e milioni di persone si professano cristiani, ma ogni giorno bestemmiano, usano la lingua per ingannare il prossimo, per fare discorsi immorali, è lecito domandarsi come sia possibile che gli individui si sentano in regola con Dio e con il prossimo? Quando Gesù disse che gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa uscita dalla loro bocca, com'è possibile essere sereni quando non si fa che mentire ad ogni istante? E forse sincerità quando si promette e non si mantiene? Quando si promette ai figli di aspettare 5 minuti pur sapendo che non è possibile, è sincerità? Quando si promette al prossimo un favore sapendo che questo non è compatibile con i nostri impegni, è sincerità? Quando si promette a Cristo Gesù di vivere per Lui e poi non gli si dà altro che i ritagli di tempo, è sincerità? L'uomo iniquo è molto più comune di quanto non si creda. Come esseri pensanti, ci interroghiamo spesso come sia possibile che in una società ci siano persone che compiano tanto male, che ci sia il terrorismo, che ci sia tanta delinquenza. Tutti abbiamo un grande desiderio di pace e di tranquillità e ci chiediamo perché debba esserci sempre questo conflitto tra il bene e il male. Una cosa è certa, non è una novità e sarà sempre così. Non è un'opinione pessimistica, ma si tratta di accettare la realtà, che finché esistono persone che amano la giustizia, queste non potranno andare d'accordo con chi ama l'ingiustizia e il male. La parola di Dio lo ha sempre dichiarato. PR 29:27. L'uomo iniquo è un obbrobrio per i giusti, e colui che cammina rettamente è un obbrobrio per gli empi. Fra il giusto e l'iniquo vi è sempre stata incompatibilità. Come può andare d'accordo il giusto con chi ha un cammino ingiusto non equo? L'amore per Dio implica il rifiuto di ciò che è sbagliato. E se non si vuole tirare in ballo il discorso religioso, è sufficiente osservare il comportamento della società. Anche se tutti abbiamo un disperato bisogno di pace e di tranquillità, perché lo Stato combatte contro certi uomini, quali i pedofili, gli assassini, gli stupratori, i spacciatori di droga, perché si è fortemente contro il terrorismo, non sarebbe meglio cercare la pace e un accordo? Questo non è possibile, perché se si vuole vivere in una società con la pace e la serenità, occorre essere nemici di chi non vuole la pace e la sicurezza. Se questo metodo è accettabile in una società democratica, perché non accettare questo principio nel campo di Dio? Com'è possibile che chi professa Gesù come l'unica verità e l'unica via per ottenere la vita eterna possa andare d'accordo con chi crede che occorre essere buoni per andare in cielo o che sia necessario osservare con onestà la propria religione per essere salvati? Ecco perché la Scrittura ordina ai credenti di odiare il male. Odiare il male non è tanto avversione verso qualcuno, ma avversione verso ciò che Dio disapprova. Se Dio disapprova l'uomo iniquo, come può approvarlo il credente? Il libro dei Proverbi riassume così l'odio di Dio. Sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio, gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina. Discordi tra fratelli, PR 6 ore 16 minuti e 19 secondi. Pur amando più di qualunque moralista o religioso la pace, il credente si trova contro la sua volontà. Adesso conosco una donna che viveva una vita normale con suo marito e ai suoi due figli. Al di là dei vari battibecchi che vi sono normalmente tra due coniugi, questa donna svolgeva serenamente il suo compito di sposa e di madre fino al giorno nel quale essa conobbe l'Evangelo, ebbi personalmente la gioia di portare in quella casa la parola di Dio. Iniziamo a leggerla assieme ai figli e al marito. Il marito, che militava in un partito estremista, ascoltava curioso e i figli erano oltremodo interessati al messaggio di Cristo che era morto per loro. Venne il giorno che lo Spirito Santo toccò prima il cuore della moglie e in seguito i due figli. La donna accettò il messaggio che Cristo era morto per lei, credette che i suoi peccati erano stati già perdonati, accettò il perdono e divenne figlia di Dio. E così pure i suoi figli. Dopo aver scelto Cristo, quale Salvatore Signore, la donna, in ubbidienza alla volontà di Dio, divenne una moglie ancora più sottomessa e rispettosa nei confronti del marito e una madre ancora più premurosa. Ma nel marito qualcosa scoccò. Da un uomo curioso e attento si trasformò in un accanito oppositore del Vangelo e della moglie. Egli ritenne un tradimento la scelta della moglie nei confronti di Cristo. E da quel giorno non vi erano che parole di accuse e di condanna nei confronti della donna e soprattutto di Cristo. Quello che impressiona un qualsiasi semplice spettatore è l'apparente inspiegabile e immotivatamente profonda avversione del marito nei confronti della moglie nel momento che questa ha scelto di essere più giusta e coerente alla chiamata di moglie e madre. Cos'è successo? Nulla di nuovo e di strabiliante. E semplicemente è successo che la moglie ha scelto il bene e di compiere ciò che è giusto, mentre il marito, meno che viveva all'ombra della religione cattolica alla quale permette la più profonda ipocrisia, meno ha rivelato il suo segreto volto di iniquo. Da questo episodio possiamo comprendere che è l'iniquo che si scaglia contro il giusto e non il giusto contro l'iniquo. Ancora oggi, molti credenti per la loro fede sono racchiusi nei container solo perché professano di credere in Cristo. Chi produce la guerra? Chi desidera il conflitto? La risposta è una sola: l'uomo iniquo, cioè colui che non è giusto. Noi abbiamo un disperato bisogno del messaggio del Vangelo. Come sempre, se la parola di Dio parla dell'uomo iniquo, è perché vi è qualche lezione da imparare. Che lezione possiamo trarre da queste riflessioni? Traiamo la risposta dalla parola di Dio. Is 55, 7. Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli all'Eterno, che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Anche se è vero che abbiamo in noi un principio di ingiustizia, il peccato non limita l'amore di Dio. Egli è sempre disposto a ricominciare. Notiamo che Dio invita l'iniquo a lasciare i suoi pensieri iniqui, perché il peccato inizia sempre dalla mente. L'iniquo ha bisogno di depurare i suoi pensieri con la parola di Dio, di adeguare il suo ragionamento ai principi divini. Se i coniugi donegani vengono trovati il 17 agosto del 2005 in Valcanonica mutilati e rinchiusi in sacchi della spazzatura, Sehina, una ragazza di 22 anni di origine pakistana, viene trovata seppellita nel giardino di casa colpita alla gola dal padre con un'arma da taglio e poi chiusa in un sacchetto, se persone come il pittore Aldo Bresciani di 72 anni vengono trovati morti assassinati nel loro appartamento, non possiamo incolpare il dio Trino dei cristiani perché il suo invito è che l'uomo iniquo abbandoni il suo modo di pensare. Il dramma è che chi non si nutre della parola di Dio ogni giorno può comportarsi da iniquo senza saperlo. Come disse Pietro al popolo giudaico nel suo primo messaggio cristiano in merito a Cristo? Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio la presenza di Dio, voi, per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Atti 2:23. Chi crocifiggeva Gesù pensava di essere nel giusto, eppure era iniquo. Chi metteva a morte i primi cristiani pensava di compiere un favore alla società. Come anche il cattolicesimo, quando torturava e metteva a morte i cristiani pensando di compiere la volontà di Dio. Se non vogliamo essere iniqui, nutriamo costantemente la nostra coscienza con la parola di Dio in modo che il Dio della parola formi a sua immagine e somiglianza la nostra mente. Non è molto lontano il tempo nel quale nelle società per bene si metteranno ancora a morte i cristiani, come tuttora succede in certi paesi ostili al cristianesimo. L'iniquità, cioè l'ingiustizia, è all'ordine del giorno e solo un amore sviscerato per Cristo può allontanare da noi l'iniquità delle parole e delle azioni. Gennaio 2007. Ellero.